dramma di Napolitano, ora l'aspetta la prova del Parlamento. Stasera il Premier Monti spiegherà il provvedimento a Porta. Il presidente dell'Eurogruppo Juncker definisce scioccante la decisione di Standard & Poor's di mettere sotto osservazione i rating dei paesi dell'Eurozona. Questa mattina borse volatili. L'ex sottosegretario Cosentino, referente dei casalesi secondo gli investigatori. Indagato anche il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Fiorello batte se stesso ed è record. Più di uno spettatore su due ha visto ieri sera l'ultima puntata del suo programma. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il presidente della Repubblica Napolitano dunque ha firmato poco fa il decreto legge con la manovra Salva Italia varato dal governo. Il provvedimento passa ora all'esame del Parlamento. In diretta con noi da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Il testo emanato questa mattina dal Capo dello Stato arriverà nelle prossime ore in Parlamento. Governo e forze politiche puntano a chiudere la partita entro Natale. Poco meno di 20 giorni dunque per l'esame alla Camera e poi al Senato. Vista la ristrettezza dei tempi e tanti malumori tra i partiti è quasi certo il ricorso alla fiducia. Quanto ai contenuti sono diversi dettagli che emergono scorrendo il decreto. La prima rata dell'una tantum sui capitali scudati dovrà essere versata entro il 16 febbraio 2012 ed ancora le imprese che assumeranno donne e giovani sotto i 35 anni a tempo indeterminato avranno la possibilità di dedurre 10.600 euro, lo sconto sale a 15.200 nelle regioni del sud, è vietato poi ai titolari di cariche in imprese operanti nei mercati del credito e finanziari di assumere analoghi impegni in imprese concorrenti. Nuovi fondi in arrivo per la cultura, in particolare per l'Accademia dei Lincei e l'Accademia della Crusca, il superbollo riguarderà le vetture superiori ai 185 kW. Infine la giornata di Mario Monti, il Presidente del Consiglio è impegnato nella messa a punto dei prossimi vertici europei, questa sera sarà da Vespa a Porta. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Dal lato dunque l'iter parlamentare con qualche insidia, dall'altro le proteste dei sindacati, in particolare per la riforma delle pensioni. Non sono poche dunque le critiche alla manovra. Ci racconta tutto in diretta Elisabetta Fiorito. L'ipotesi fiducia ci va sempre più strada tra PD e PDL per far passare la manovra firma Mario Monti, non è la nostra ma la voteremo per senso di responsabilità, avrebbe detto Silvio Berlusconi all'ufficio di presidenza del PDL. E mal di pancia nel partito dell'ex premier, soprattutto per l'ICI, il cavaliere spera nella fiducia, ma anche per altro, per esempio Guido Crosetto critica la tracciabilità a 1000 euro che farà emigrare i capitali all'estero. Antonio Leone, un fedelissimo di Berlusconi, dice la voterò perché sono costretto. Non equa invece, ribadisce il PD, ma va votata, anche se Enrico Letta precisa quello migliore è il voto dei mercati. È sbilanciata, spiega Anna Finocchiaro, soprattutto per gli scudati, ovvero per il rientro dei capitali all'estero che pagano solo il 4%. Da ribadire il no di Lega e DV, mentre pieno sostegno all'UDC che critica PDL e PD. La politica non si salverà con le furmerie, dice Pier Ferdinando Casini, è il momento di metterci la faccia e di assumerci i provvedimenti impopolari che servono urgentemente al Paese. Veniamo poi al fronte sindacale, sindacali divisi sullo sciopero per la riforma delle pensioni, la CGIL si asterrà dal lavoro per 4 ore lunedì, CISL e UIL solo 2. E il segretario CISL Raffaele Bonanni chiede al governo di aprire la trattativa sulle pensioni. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. E la Commissione europea ha affrontato su richiesta dei radicali la questione. Il Premier Monti in conferenza stampa, illustrando la manovra, però ha detto di non essersi posto il problema del pagamento dell'ICI per i beni della Chiesa. Il concordato su questo punto è abbastanza chiaro. Stabilisce infatti che siano soggette al regime tributario ordinario le attività svolte da enti ecclesiastici diverse da quelle di religione e di culto. Quando venne introdotta l'ICI nel 92, si stabilì una esenzione per tutti gli immobili considerati particolarmente meritevoli, dicitura ritenuta ambigua che nel 2004 portò alla sentenza della Corte di Cassazione che stabilì che l'esenzione poteva essere applicata solo quando all'interno dell'immobile si svolgesse un'attività effettivamente meritoria e legata al culto. Per fare un esempio, sì all'esclusione per una chiesa o un oratorio, no per gli immobili di proprietà vaticana adibiti ad esempio ad alberghi. L'anno successivo, nel 2005, il governo Berlusconi approvò una discussa norma che stabiliva invece l'esenzione del pagamento dell'ICI per tutti gli immobili della Chiesa. Norma in parte limitata dal governo Prodi nel 2006. Confermò l'esenzione, ma solo per gli immobili dalle finalità non esclusivamente commerciali. Su quell'avverbio esclusivamente si è poi giocata la partita. Secondo alcune stime, il risparmio annuo per la Chiesa si avvicina ai 2 miliardi di euro, calcolando, sono stime dei radicali, in circa 50.000 il numero degli immobili ecclesiastici, anche se un censimento vero e proprio non è mai stato fatto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La decisione di Standard & Poor's di mettere sotto osservazione il rating dei paesi dell'Eurozona in vista di un possibile downgrade è scioccante ed esagerata. A parlare così questa mattina il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. E stamattina borse piuttosto volatili, ci racconta tutto in diretta Deborah Rosciani. Sì, effettivamente la decisione di Standard & Poor's ha rappresentato una doccia fredda anche per gli investitori che, piuttosto che consolidare i rialzi di ieri, oggi hanno preferito prendere profitto dai guadagni appunto ottenuti nella seduta precedente. Quindi stamattina apertura in ribasso che poi è stata ridimensionata, i listini hanno migliorato, qualcuno è addirittura passato in territorio positivo, adesso invece riscendono di nuovo tutti con l'eccezione di Londra che guadagna un modestissimo 0,08%, meno 0,32% a Parigi, meno 0,7% a Francoforte che comunque è arrivata a perdere 1,5%, Milano che è scivolata di oltre 1 punto adesso perde lo 0,44% e tornano a scendere i titoli bancari. Ma non tutti, perché il migliore è proprio Monte dei Paschi che segna un più 2,26%. L'euro sul dollaro riconquista 1,34, lo spread invece ancora in calo piuttosto forte, è arrivato a 359 punti base con il rendimento del titolo decennale che è sotto il 6%, per cui almeno da questo punto di vista la situazione appare più tranquilla, naturalmente del mese di novembre quando lo spread era arrivato a livelli record superando più volte 500 punti base. Per ora Piera è tutto. Grazie Deborah. Lo sentivamo in apertura, stasera il presidente del Consiglio Monti sarà a porta dal salotto di Vespa, spiegherà nuovamente la manovra agli italiani. Una partecipazione televisiva che però ha suscitato qualche polemica. Sentiamo su queste Bruno Vespa questa mattina al microfono di Alessandro Milan. Questo è un paese che in buona parte ha odio verso i moderati, verso l'informazione moderata. I moderati sono la maggioranza di questo paese, l'informazione moderata è una larghissima minoranza e si continua a fare questa guerra che è una guerra, insomma, non si capisce perché il Presidente del Consiglio non possa venire nella trasmissione nella quale sono venuti 5 Presidenti del Consiglio, tutti nell'arco di 16 anni, alla quale ha telefonato un Papa e non mi pare che ce ne siano altre, e alla quale proprio lo stesso Monti in settembre ha partecipato insieme con il Presidente della Repubblica Napolitano. Ho rivisto pochi giorni fa le immagini di Jay Leno, che è un conduttore che esattamente ha 17 anni, sì, cioè certo, di Porta a Porta davanti, è entrato Obama, lo ha abbracciato, lo ha baciato e Leno applaudiva le battute di Obama. Puoi immaginare cosa succederebbe in Italia se facessero cose di questo genere? Siamo ipocriti, siamo ideologicamente violenti e questa è una delle anomalie del paese. Qual è stata la mia colpa? Di fare un invito, e la colpa del Presidente del Consiglio è stata di accettarlo. Il commento del nostro Gianluca Nicoletti. Io trovo lievemente esagerato il tono delle polemiche sul fatto che il Presidente del Consiglio Monti questa sera vada porta a porta ad esporre i termini della manovra agli italiani. Trovo importante che un pubblico generalista, un pubblico che ha come unico riferimento la realtà, il canale della televisione Ammiraglia, che ha come luogo di maggior approfondimento la realtà il salotto di Bruno Vespa, il fatto che il Presidente del Consiglio vada lì e racconti quello che ha già raccontato nella conferenza stampa. Non mi sembra di secondaria importanza in un momento così difficoltoso in cui questa manovra toccherà così fortemente le abitudini, le speranze, le consuetudini degli italiani, che non si vada in televisione a raccontarlo. Detto questo, non ho una particolare affezione o ammirazione per il programma di Bruno Vespa, ma non c'è di meglio in questo momento, non c'è altro che rappresenti in maniera più capillare il pubblico della televisione generalista. Quello guardano gli italiani di una certa fascia d'età, di un certo livello di istruzione, e quello è l'unico luogo in cui si possa andare in questo momento se si vuole decodificare per il pubblico la televisione generalista un piano così complesso e così difficoltoso da mandare giù. E la partecipazione di Monti alla trasmissione di Vespa è stato anche uno dei temi dei monologhi ieri sera dell'ultima puntata del programma di Fiorello, puntata vista da 13.400.000 spettatori con poco più del 50% di share, decisamente un record. Alla fine il più grande spettacolo dopo il weekend è sempre solo Fiorello, quando parla di politica. Un po' mi duole perché poverino non riusciva a dire la parola perché dovete fare i sacri. Dovete fare i sacri. Ce va da Vespa! Benvenuta, Lici, eccola qua, è tornata. Salve, dindon, chi è? L'IRPEF! No! Quando prende in giro la TV... Io quei bambini mi fanno impazzire. Ciao, come ti chiami? Marco! Cosa ci canti? Il sole mio! Il sole mio! Ma chi sono? Quando canta con Jovanotti, balla con Bolle e sovverte le regole Rai. Secondo me, al posto del cavallo di Viale Mazzini, ci vorrebbe una statua enorme, un profilatticone. Salva la vita sto coso! Come il Beghelli! Non ci posso credere! Anzi, chiamiamolo Salva la vita Pischelli! E così l'attesa per Benigni si sgonfia in un quarto d'ora di battute che sembrano di un'altra epoca, meglio quando non vuole far ridere. Andrea Pazienza l'ha lasciato scritto: non bisogna mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. La quinta puntata? Fiorello assicura non ci sarà. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pugno di ferro del Comune di Milano per contrastare lo smog, blocco totale del traffico venerdì e sabato, chiuse anche le scuole. Alla fine, dopo 22 giorni di sforamento del limite delle polveri sottili, i provvedimenti di emergenza sono arrivati. Li proporrà oggi la giunta Pisapia al tavolo dei sindaci della provincia di Milano. Blocco totale del traffico venerdì 9 e sabato 10 dalle 10 alle 18 e chiusura di tutte le scuole in città. Misure drastiche alle quali si accompagneranno il prolungamento del divieto di circolazione ai diesel Euro 3 fino al 23 dicembre e il lavaggio straordinario delle strade. Per andare incontro ai commercianti e al popolo dello shopping natalizio, negozi aperti fino a mezzanotte da mercoledì a domenica. Misure che, dopo i malumori per la retromarcia sulla chiusura del centro città, il sindaco di Milano si è detto pronto ad adottare anche in solitaria. E da lunedì, l'ipotesi non viene esclusa, potrebbero anche scattare le targhe alterne. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La manovra Salva Italia ha ricevuto la firma da Napolitano. Ora va alla prova del Parlamento. Stasera il Premier Monti spiegherà il provvedimento a Porta a Porta. Il presidente dell'Eurogruppo Juncker definisce scioccante la decisione di Standard & Poor's di mettere sotto osservazione i rating dei paesi dell'Eurozona. Questa mattina borse volatili. Fiorello batte se stesso ed è record. Più di uno spettatore su due ha visto ieri sera l'ultima puntata del suo programma. E ripartiamo in questa seconda parte di GR24 dall'inchiesta che ha portato questa mattina vari arresti per collegamenti fra camorra e mondo politico. In diretta con noi Monica Ceravolo. Sì, buongiorno, c'è anche il presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro del PDL, e tra gli indagati nell'ambito di questa inchiesta anti-camorra che è sfociata in 55 arresti tra politici, imprenditori ed esponenti dei clan casalesi. Nell'indagine che ricostruisce i rapporti tra una parte della classe politica di Casal di Principe e la camorra è coinvolto anche l'ex sottosegretario Nicola Cosentino, per il quale è stata presentata alla Camera l'autorizzazione all'arresto. Cosentino è indagato per falso aggravato dall'aver agevolato la mafia, avrebbe fatto pressioni per sbloccare un prestito da 5 milioni e mezzo di euro per realizzare un centro commerciale a Casal di Principe in un'area peraltro vincolata. Il finanziamento era bloccato, ma dopo l'intervento del parlamentare venne concesso nonostante a garanzia fossero state presentate false fideiussioni bancarie. In quell'occasione Cosentino, che ricopriva il ruolo di sottosegretario all'economia, venne accompagnato da Cesaro e questo è il motivo per cui è indagato. Tra gli arrestati poi anche i due funzionari Unicredit di Roma, ai quali il politico si è rivolto per sbloccare il prestito. In manette poi diversi esponenti dei consigli provinciale e comunale di Casal di Principe, quest'ultimo già commissariato, sono accusati di voto di scambio in un rapporto tra politica e camorra che definisce il GIP che ha firmato gli arresti osmotico, un rapporto in cui la politica risulta asservita alla camorra. E per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Monica Ceravolo. Andiamo invece all'estero, perché una serie di attentati si è verificata questa mattina in Afghanistan nel giorno della festa religiosa dell'Ashura. L'episodio più grave a Kabul, dove un kamikaze si è fatto esplodere vicino ad una moschea causando più di 50 morti e un centinaio di feriti fra i partecipanti di una processione. Mai prima, in un giorno sacro come l'Ashura, si erano verificati atti di terrorismo di tale portata, ha commentato il presidente afghano Hamid Karzai da Berlino, dove all'indomani della conferenza internazionale di Bonn ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel. I talebani però dicono che non è roba loro questo attentato. Noi siamo in diretta con Alberto Negri del Sole 24 Ore. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora, i talebani dicono che questo attentato non è opera loro. Poco fa un'agenzia riporta questa notizia, che un'organizzazione terroristica islamica pakistana, il cui nome non sono in grado assolutamente di leggere, ha rivendicato oggi la strage che, come dicevamo, ha causato decine di morti, si parla di 54 morti. Ecco Alberto, questa organizzazione terroristica islamica pakistana potrebbe essere davvero responsabile dell'attentato? Chi sono? Ma innanzitutto spieghiamo che cos'è questa Ashura. Ashura ricorda il sacrificio di Hussein, uno dei nipoti di Maometto, il figlio di Ali, che fu ucciso a Kerbala nel 680. Ebbene, questa è una delle feste più sacre del mondo sciita, no? E che l'abbia rivendicato un gruppo pakistano, da questo punto di vista non può neanche troppo meravigliare, perché se uno scorre le cronache di questi anni del Pakistan si accorge che ci sono stati centinaia di morti tra gli sciiti ammazzati in attentati, in atti di violenza compiuti da organizzazioni sunnite, radicali ed estremiste. La cosa interessante è che il teatro di questo attentato siano stati da una parte Kabul, dall'altra Mazar-e-Sharif, dove c'è appunto una famosa moschea dedicata ad Ali. Questo cosa vuol dire? Che l'Afghanistan è diventato un importatore di terrorismo dal Pakistan, e quindi ancora di più in qualche modo si sottolinea il fatto che proprio ieri a Berlino il Pakistan fosse assente da questa conferenza di pace sull'Afghanistan. L'assenza del Pakistan rende tutto più difficile e in qualche modo rende quasi impossibile la stabilizzazione dell'Afghanistan. Grazie ad Alberto Negri del Sole 24 Ore per questa sua analisi. Noi invece andiamo in Belgio, perché oggi alle 15 ci sarà il giuramento finalmente del governo Di Rupo. Alberto II, re del Belgio, ha nominato ufficialmente ieri il socialista francofono Elio Di Rupo come primo ministro, insieme a 12 ministri e 6 segretari di Stato del nuovo esecutivo. Alberto II ha messo così fine alla crisi politica più lunga della storia del regno, durata ben 540 giorni. 18 mesi dopo la caduta del governo, diretto dal democratico cristiano fiammingo Yves Leterme, e 540 giorni dopo le elezioni legislative del 13 giugno 2010, c'è dunque voluto un negoziato maratona di 20 ore tra i 6 partiti della coalizione per definire la ripartizione dei dicasteri. Alla fine non ci sono cambiamenti rilevanti rispetto all'esecutivo uscente, la sola importante differenza è l'ingresso dei socialisti fiamminghi nella coalizione governativa, di cui fanno parte anche i socialisti francofoni, i liberali e i democratico cristiani. Restano invece all'opposizione i verdi e gli indipendentisti fiamminghi. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. Nuovo tavolo negoziale oggi per il nuovo contratto del gruppo Fiat. Si va avanti senza la FIOM, che ha opposto un netto rifiuto all'accordo del 29 dicembre 2010, che prevede, come sapete, l'estensione del modello pomigliano a tutte le fabbriche del gruppo. In diretta con noi Andrea Malan del Sole 24 Ore. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Allora, si tira dritto anche senza la FIOM? Certo, dopo lo strappo di ieri è ripresa stamattina la trattativa con le sindacali che sono rimaste al tavolo. Ricordiamo che il nuovo contratto dovrà riguardare circa 86.000 dipendenti di Fiat S.p.A. e Fiat Industrial. Le delegazioni stanno lavorando alla stesura del testo, che avrà come base l'intesa su Pomigliano di un anno fa, ma che secondo i sindacati non ricalcherà esattamente quell'intesa. Ci sono ancora vari punti in discussione. Direi che, data la situazione tra le varie sigle sindacali, uno dei punti importanti sarà proprio quello della gestione della rappresentanza sindacale in azienda. L'obiettivo comunque è di chiudere in tempi rapidissimi, forse già entro questa settimana. Grazie ad Andrea